La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, bentornati alla Quota Rosa. Oggi una puntata ispirata agli ultimi avvenimenti politici, al dibattito sulla giustizia, e appunto ieri è intervenuto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha detto non modificabili le fondamenta della Costituzione, e proprio ha detto, per quanto si discuta su cosa cambiare e cosa no della Costituzione, certamente i principi fondamentali sono fuori discussione e nessuno può pensare di modificarli o di alterarli. Il clima sulla giustizia in questi giorni è rovente, si direbbe in gergo giornalistico. Abbiamo però con noi, per parlare di questa possibile riforma di cui si parla da tanto tempo, l'onorevole Iole Santelli, PDL, avvocato e membro della Commissione Affari Costituzionali. Buongiorno. Buongiorno. L'onorevole Donatella Ferranti, PD, magistrato e membro della Commissione Giustizia. Buongiorno. Buongiorno. E poi l'avvocato Ludovica Giorgi, da poco eletta ai vertici dell'Unione Camere Penali Italiane, e le vogliamo fare le nostre congratulazioni perché una donna è diventata segretario, giusto? Giusto, giusto, esattamente. Allora, grazie per le congratulazioni, buongiorno a tutti. Buongiorno. Riforma della giustizia. Abbiamo visto che, a parte il monito del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, c'è qualche problema all'interno del Popolo della Libertà, o meglio, del centrodestra, perché la Lega ha detto a Berlusconi di abbassare i toni, al premier Berlusconi di abbassare i toni, e il senatore, secondo indiscrezioni giornalistiche, manda segnali al Partito Democratico: noi la monarchia non l'accettiamo. Iole Santelli, PDL, è vero che c'è questo attrito sulla giustizia tra Bossi e Berlusconi? Ma guardi, sulla giustizia con la Lega non ci sono mai stati problemi. Io ricordo che nella legislatura precedente di governo Berlusconi, dal 2001 al 2006, proprio il ministro della giustizia, che era leghista, che è leghista, che ancora è al governo, penso che fu l'alfiere di alcune proposte di riforma abbastanza serie. Al di là di tutto, innanzitutto mi permetta di dare gli auguri all'avvocato Giorgi anch'io, se no poi nel corso della discussione perdiamo il filo. Il problema giustizia è un problema, a mio parere, di ferita della democrazia in Italia. In che senso? Nel senso che siamo di fronte a un servizio che ha una serie di falle. Di falle innanzitutto nel servizio offerto ai cittadini, e può essere affrontato a vari gradi. Nel senso che esiste un tema di efficienza processuale, esiste un tema più generale istituzionale di rapporti istituzionali all'interno dei poteri dello Stato, e quindi io credo che la cosa principale dovrebbe essere quella di un chiarimento serio fra le forze politiche, senza infingimenti, senza tatticismi, a distanza di ormai, io direi più o meno dal 1987, questo è il tema all'ordine del giorno, dal famoso referendum sulla responsabilità dei giudici, dalla proposta Craxi poi di riforma della magistratura. E oggi è arrivato il momento di chiarirci fino in fondo, di chiarirci per rilegittimare in qualche modo anche la stessa magistratura, perché non possiamo mantenere uno scontro così aperto e così continuativo, di cui oggi poi alla fine vediamo le macerie. Donatella Ferranti, PD, lei è stata magistrato, membro della Commissione Giustizia. Uno dei cardini della riforma del centrodestra da sempre è la separazione delle carriere tra PM e magistratura giudicante. Però Berlusconi in questi giorni ha anche detto: noi cambieremo la Costituzione, faremo la riforma della giustizia eventualmente anche senza l'accordo con l'opposizione. È stato molto duro: mai più al tavolo, non mi siederò mai al tavolo questa opposizione, però i gruppi parlamentari possono lavorare insieme. Sì, ma in realtà, insomma, abbiamo visto che il Presidente Berlusconi ha avuto delle affermazioni molto altalenanti in questi giorni, e in realtà poi, al di là delle affermazioni, insomma, che danno un po' sempre di reazione emotiva in televisione, sui giornali eccetera, in Commissione Giustizia si cerca quotidianamente di lavorare, diciamo, nel miglior modo possibile, nell'interesse del Paese e anche con un'attività, con uno sguardo reciproco da parte dei componenti della Commissione Giustizia in termini appunto di costruttivi. Certamente poi ci sono dei principi fondamentali che ognuno ha e che fanno la differenza appunto delle posizioni, e senza esagerare poi, no, nell'acuirle queste differenze. Sotto il profilo di quello che è un po', no, il cavallo di battaglia poi del PDL, questa separazione delle carriere, ritengo che sia più un cavallo di battaglia un po', diciamo, che più politico, che non diretto poi veramente alla riforma della giustizia. Insomma, cambierebbe poco dal punto di vista proprio della efficienza ed efficacia dei processi penali e delle cause civili e questa separazione delle carriere. E da parte nostra, diciamo, da parte del Partito Democratico, su questo punto noi abbiamo una diciamo, posizione che sostanzialmente è quella un po', insomma, di sempre, e che, diciamo, riteniamo appunto che questa separazione delle carriere non è necessaria a dare quell'effettività ed efficacia del processo. Attendiamo di poter fare un confronto comunque in Commissione Giustizia, più che sulle pagine dei giornali, sulle riforme procedurali. Pensiamo che proprio poco fa l'onorevole Santelli ha ricordato come il ministro Castelli iniziò una riforma diciamo della giustizia, dell'ordinamento giudiziario, che è stata poi completata nella scorsa legislatura, è stata approvata appunto la legge 111 del 2007, quindi parliamo di un anno fa, che ha diciamo rivisto l'ordinamento giudiziario ed ha attuato un principio della netta separazione delle funzioni tra la carriera appunto di pubblico ministero e la carriera dei giudici. Quindi lei dice che tutto questo è un po' un polverone, perché di fatto già c'è? Beh sì, perché di fatto, se si vuole, si possono, diciamo, non, ieri ho sentito parlare il presidente Berlusconi, ieri mattina ha lanciato un messaggio: non parliamo più di distinzione di carriere, parliamo di distinzione di ordinamenti. In realtà questa, diciamo, già ho proprio parlato di date, perché insomma, questa riforma che è stata approvata la scorsa legislatura ha una matrice che nasce dal centrodestra, no? Dal governo, mi pare che l'onorevole Santelli era sottosegretario, cioè erano il governo del ministro, sì, Castelli. Sì, sì, sì, perfetto. Ecco, quindi e lì è stato attuato, non lo vogliamo dimenticare, forse si può perfezionare quel tipo di separazione delle funzioni, questa distinzione di funzioni, no? Che è molto netta, vuol dire che se uno svolge le funzioni del pubblico ministero in un certo ambito, in un certo ufficio, non può svolgere in quell'ufficio le funzioni di giudice in quel distretto. Deve cambiare distretto e deve essere sottoposto a una valutazione di professionalità e di idoneità. Sì, quindi è più, ecco, un discorso, dicevo così, un cavallo di battaglia politico che non è sostanziale. Ecco, io però vorrei interromperla perché voglio sentire il parere dell'avvocato Ludovica Giorgi, da poco eletta ai vertici dell'Unione Camere Penali Italiane. È vero che questa separazione delle funzioni, delle carriere, c'è già di fatto nel nostro ordinamento, cioè poi nella prassi? No, assolutamente no. Non c'è già di fatto. Quello che è stato fatto è esattamente ciò che l'onorevole Ferranti ha detto, cioè si è ripristinata una sorta di parvenza di distinzione. E allora si dice, perché la magistratura giustamente non solo deve essere indipendente ma deve apparire indipendente, si dice oggi che sarebbe oltremodo sconveniente, ed anzi oggi non è ammesso, che chi ha svolto funzioni di pubblico ministero in un determinato distretto di corte d'appello non possa poi in quel distretto svolgere funzioni di giudice e viceversa. Questo però non dice nulla circa la separazione delle carriere. Il problema è profondamente diverso. Qui c'è un problema di garanzia della indipendenza del giudice e di garanzia, come diceva prima l'onorevole Santelli, di un assetto democratico del Paese. Attualmente, voi lo sapete, giudice e pubblico ministero rispondono a un medesimo organo di governo autonomo, il cui funzionamento proprio in questi giorni, no, è stato sottoposto ad aspra critica. Rispondono allo stesso organo ed è ovvio che... Ricordiamolo, il Consiglio Superiore della Magistratura. E questo necessariamente mina l'indipendenza del giudice. il cui operato è sotto il vaglio di quello stesso organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che soprintende all'operato del pubblico ministero e che è fondamentalmente composto da magistrati del pubblico ministero nominati dalle correnti. Qual è il cittadino che si sentirebbe sufficientemente garantito dalla imparzialità del giudice, sapendo che comunque quel giudice nel suo operato sarà chiamato a rispondere dinanzi a un organo siffatto? È un problema, direi, che Berlusconi ne fa sì un cavallo di battaglia, ma al di là di quelle che sono le esternazioni del nostro Presidente del Consiglio, questo è effettivamente un problema di fondo, è proprio un problema di democrazia. Non esiste in Europa Stato democratico in cui chi accusa faccia parte dello stesso ordine di chi decide. È un'aberrazione, ce ne rendiamo credo conto tutti. Certo che non è tramite la separazione delle carriere che si garantirà ciò che il PD, in piena coerenza con i desiderata dell'Associazione Nazionale Magistrati, dice di voler praticamente esclusivamente perseguire, e cioè l'accelerazione del processo. No, la separazione delle carriere non c'entra nulla con l'efficienza del processo. È indubbio però che oltre ai necessari interventi sulla efficienza del processo è necessario un intervento organico per garantire assetto democratico al sistema. Ecco, ho fatto solo un inciso. Il Presidente della Repubblica ha detto, mi pare che lei abbia riferito, non modificabili le fondamenta della Costituzione, la famosa prima parte. Allora, le fondamenta della Costituzione sono, l'ho davanti, i primi 12 articoli. Credo che nessuno metta in dubbio che i primi 12 articoli della Costituzione non possano essere modificati, ma laddove già si parla di riforma elettorale, per esempio, si parla di modifica della Costituzione, e nessuno credo anche qui abbia messo in dubbio la legittimità di uno Stato di darsi un assetto elettorale di tipo diverso. La quota rosa. E torniamo a parlare di giustizia. Stavamo parlando con l'avvocato Ludovica Giorgi. I primi 12 articoli della nostra carta fondamentale della Costituzione, ricordiamo che sono poi i principi fondamentali ispirati alla Dichiarazione di Filadelfia: tutti gli uomini sono uguali, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, tanto per far capire alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto sono immodificabili e tutti quanti noi siamo d'accordo. Allora, da che punto si può cominciare a cambiare la nostra carta costituzionale? Allora, teniamo conto di questo. Il nostro ordinamento giudiziario è un ordinamento giudiziario che risale all'epoca fascista. Quindi è un ordinamento giudiziario da magistrato di regime. Quello attuale è un ordinamento giudiziario da magistrato di regime, perché a quell'epoca risale, salve quelle banali e lievi modifiche a cui accennava prima l'onorevole Ferranti. La nostra carta costituzionale, al contrario, è stata promulgata successivamente alla guerra e ha il complesso del dittatore e sotto il complesso del dittatore, quando quindi alla magistratura si voleva garantire, e giustamente, piena indipendenza e autonomia. C'è un però: lo stesso legislatore costituzionale si era reso conto perfettamente della discrasia che esisteva fra l'indipendenza e l'autonomia giustamente garantite dalla Carta Costituzionale e il vecchio ordinamento giudiziario. Il famoso codice Rocco? Il famoso codice Rocco e il codice di procedura penale, anche quello e anche il codice penale risentono, il codice Rocco è il codice penale e è il codice adottato in epoca fascista, il codice di procedura penale nuovo invece è stato poi adottato successivamente. Quindi un passo l'abbiamo fatto, insomma. Nel 1988, sì, esatto, però dico, già il Costituente si rendeva perfettamente conto che andava modificato l'ordinamento giudiziario per renderlo coerente con la Costituzione, perché vi è una disposizione transitoria che è la settima della Costituzione, che dice chiaramente fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità con la Costituzione, continuano a conservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Cosa significa? che già i padri costituenti si rendevano conto che quell'ordinamento giudiziario non era adeguato ai nuovi principi di indipendenza e di autonomia della magistratura. È quindi un'esigenza posta dalla Carta Costituzionale stessa, a maggior ragione oggi che c'è un articolo della Costituzione modificata e non molti anni fa, l'articolo 111, che garantisce un giudice non solo imparziale ma terzo, e terzo sicuramente significa diverso da chi accusa, è diverso da e da chi difende. Ma in tutta questa polemica sulla giustizia rientrano anche le intercettazioni. Il premier Silvio Berlusconi vuole comunque che ci sia un tetto a queste intercettazioni, mentre addirittura c'è un allarme del super procuratore antimafia Grasso che diciamo lo stop alle intercettazioni potrebbe favorire i mafiosi, potrebbe favorire la criminalità organizzata. Iole Santelli, come ci mettiamo allora tra l'allarme di Grasso e il veto di Berlusconi? Guardi, su 416 bis, cioè sui reati di mafia, non si interviene, nessuno ha parlato di limitare le intercettazioni sul 416 bis, ma anche le intercettazioni, se vuole, ritornano al problema di cui abbiamo parlato prima. Per comprenderci fino in fondo, forse c'è poco da dire rispetto a quanto già in maniera brillante ha detto l'avvocato Giorgi, ma vorrei aggiungere delle cose. Allora, noi siamo in una situazione assolutamente, a mio parere, di crisi di democrazia. In che senso? Nel senso che innanzitutto io auspico un dibattito alla Camera, in Parlamento, in cui ciascuna forza politica in maniera chiara, netta e ribadisco senza tatticismi del momento esprima le proprie posizioni. Per prima cosa, io vorrei sapere e comprendere se il Partito Democratico oggi dice che i problemi della giustizia sono problemi esclusivamente di efficienza processuale o sono problemi anche istituzionali, perché stando a quando leggo sui giornali da parte di esponenti importanti anche del Partito Democratico, ma posizione ribadita da molti anni ormai, anche una parte importante del PD dice che esiste un problema istituzionale. Vorrei aggiungere a quanto detto l'avvocato Giorgi, anche per far capire agli spettatori, perché noi creiamo una grande confusione, si grida ovviamente all'attacco alla indipendenza della magistratura, ma in realtà l'indipendenza riconosciuta in tutto il mondo è l'indipendenza del giudice. Noi abbiamo una Costituzione in questo che, come diceva lei prima, un po' vittima del complesso del dittatore, perché ante Costituzione repubblicana, noi avevamo il pubblico ministero sottoposto all'esecutivo, ha creato una figura diversa, una situazione diversa, che oggi costituisce un'anomalia in tutta Europa. Ma io le voglio chiedere… Scusi un attimo, mi faccia concludere perché è una cosa importante, proprio perché se il faro deve essere la Costituzione della Repubblica, la Costituzione della Repubblica dice in maniera aperta che non si può, non garantisce allo stesso modo l'indipendenza del giudice e quella del pubblico ministero. Perché? Perché dice che il giudice è soggetto solo alla legge e il pubblico ministero risponde alle regole dell'ordinamento giudiziario, cioè legge ordinaria del Parlamento. Il tema è quello, perché è un tema istituzionale, cioè quanti poteri ha il pubblico ministero, che responsabilità ha, a chi risponde della propria azione. Il tutto è aggravato fortemente perché con l'introduzione del codice dell'89 si sono ulteriormente allargati i rapporti. Adesso l'efficienza processuale, le garanzie all'interno del processo, tutto bene. Il tema è che in questo momento, in questo paese, del processo purtroppo non interessa nulla a nessuno. Tutto si compie in un momento precedente, che è quello delle indagini, che dura ben oltre molto spesso i termini previsti dalla legge, e in periodo in cui il pubblico ministero è dominus assoluto, con pochissimi spazi, tanto per la difesa quanto per l'intervento del giudice. Ecco, questo è il tema di garanzia dei cittadini. All'interno di questo le intercettazioni. Il ministro della giustizia ha detto che vuole rivedere l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè vuole cambiare il modo in cui si opera. Il problema è chi fa la politica, chi decide, chi risponde ai cittadini della politica di sicurezza e di giustizia di un paese. L'obbligatorietà dell'azione penale, che ormai ovviamente è solo una finzione giuridica, nel senso che tutto diventa immediatamente reato, diciamo notizia di reato, tutto finisce in un enorme imbuto in cui ciascun pubblico ministero pesca come gli pare i casi da prendere e quelli da considerare o meno. In aggiunta, io facevo riferimento al codice dell'89 perché gli spettatori sentano, gli ascoltatori sentano, capiscano di che sto parlando, perché il codice dell'89 ha messo il pubblico ministero in una posizione ulteriormente rafforzata, avendogli consegnato in toto il dominio delle indagini e della polizia giudiziaria. Cioè la riforma del processo. Io però la devo interrompere, onorevole Santelli, perché dobbiamo dare la possibilità di rispondere all'onorevole Donatella Ferranti, PD. Insomma, un periodo doppio mi deve dare. No, allora il PDL mi chiede. Volevo anche dire delle cose riferite allora, anche a quello che ha detto. Allora, brevemente, concludiamo con lei. Il PDL le dice, questo PD che riforma della giustizia vuole fare? Ma guardi, innanzitutto dobbiamo chiarire alcuni concetti però, perché diciamo aver fatto una semplificazione come ha detto l'avvocato Giorgi, dove sostanzialmente si dice che il pubblico ministero nominato dalle correnti e quindi del Consiglio Superiore della Magistratura in realtà poi, come dice l'onorevole Santelli, sceglie come vuole le notizie di reato da portare avanti, questa veramente è una versione alquanto distorta della realtà giudiziaria, di quello che accade quotidianamente, del lavoro serio ed onesto che tante persone, tanti magistrati svolgono quotidianamente, forse anche all'ombra nell'ombra e senza ripercussioni giornalistiche. In realtà qui non stiamo giocando con delle parole, qui stiamo parlando innanzitutto di una carta costituzionale che per noi è vero che ha riaffermato alcuni principi perché venivamo fuori da una dittatura, ma è vero pure che questi principi è una carta costituzionale di cui abbiamo festeggiato i 60 anni e che ha ancora dei momenti di grande importanza e di grande e forza democratica. Quindi noi dobbiamo, onorevole Ferranti, le rifaccio la domanda, che riforma? No, state dette delle cose. Noi allora il Partito Democratico ha presentato dei progetti, ha presentato delle proposte concrete nell'ambito di una conferenza nazionale del Partito Democratico che si è svolta a Roma nello scorso 21 novembre. In quella sede, e quindi c'è anche un documento che è stato distribuito e mandato a tutti gli operatori del diritto, in quella sede sostanzialmente noi abbiamo individuato quali sono le nostre proposte di riforma. Noi intendiamo mantenere fermi questi principi costituzionali che riguardano l'autonomia e indipendenza della magistratura tutta, prevista appunto dall'articolo 104 della nostra Costituzione, magistratura tutta che riguarda giudici e pubblici ministeri, perché un giudice non può essere indipendente se un pubblico ministero è sottoposto al potere esecutivo. Dall'altro abbiamo detto teniamo fermo anche il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, perché è un principio che è fissato dal nostro articolo 112 della Carta Costituzionale, che serve a garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Noi siamo contro la possibilità che le leggi valgano soltanto per alcuni cittadini ed altri invece ottengano con legge de personam la sospensione di processi oppure l'esonero da responsabilità soltanto perché ricoprono alcune cariche. E però ci siamo fatti carico, e questo in questo non è giusto in quanto ha dichiarato l'avvocato Giorgi poco fa, che il nostro è un progetto che di intesa con la NNM, perché noi ci siamo fatti carico di questa necessità che diceva anche l'onorevole Santelli, di garantire l'effettività dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ma come si ottiene? Non facendo sì che alcuni reati vengano perseguiti perché lo decide il potere politico, ma invece individuando degli strumenti che le sintetizzo, sono da un lato individuare delle priorità che devono essere decise nell'ambito anche di una consultazione di ciascun ufficio, ma anche con le forze esponenziali della territorialità, perché le priorità dell'esercizio dell'azione penale, che devono essere poi comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi al Ministro, che deve relazionare al Parlamento, e su questo noi presenteremo delle proposte di legge specifiche. La quota rosa. E bentornati alla Quota Rosa. Prolunghiamo questa parte sulla giustizia perché ci sembra che ancora ci sia un po' di attrito, e comunque ci sono delle divergenze molto forti tra Popolo della Libertà e PD. Donatella Ferranti, quali sono le proposte, però lo deve proprio racchiudere perché dobbiamo permettere all'onorevole Santelli di risponderle, del Partito Democratico sulla giustizia? Perché lei ha detto no alla separazione delle carriere, no alla discrezionalità dell'azione penale, giusto? Sì. Allora, e quali, che cosa proponete voi però per snellire la macchina dello Stato? Noi abbiamo presentato un progetto un pacchetto di proposte nella nostra conferenza nazionale del 21 novembre 2008, quindi sono proposte anche verificabili. Noi diciamo è possibile mantenere fermo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e quindi anche della non sottoposizione al potere politico, che non deve decidere se un certo reato deve essere perseguito o meno, quando e come fa comodo, a seconda della maggioranza. Ma riteniamo però che dal punto di vista organizzativo, presso ciascun ufficio, anche responsabilizzando i capi degli uffici, soprattutto i capi delle procure della Repubblica, d'intesa anche con un avvocato, consiglio dell'ordine, con forze della polizia, del territorio, individuando, quindi programmando in anticipo anche quello che può essere l'azione dell'ufficio giudiziario in un certo periodo, e relazionando al CSM e al Ministro, che potrà relazionare al Parlamento, perché il Parlamento possa fare le sue osservazioni. Inoltre, prevedere alcune specifiche misure deflattive, tra l'altro anche la depenalizzazione, laddove ci sono delle fattispecie che ormai non hanno più quel disvalore sociale per cui si richiede l'intervento del giudice penale. Queste ed altre, che ovviamente ci vorrebbe tanto tempo e non voglio sottrarre tempo agli altri, sono delle misure concrete che devono però salvaguardare i principi fondamentali, per cui per noi è importante, ecco perché abbiamo votato contro il Lodo Alfano, voteremo contro anche all'altra proposta che fa parte del Lodo Consolo, che intende esonerare i ministri dalle responsabilità anche nei confronti dei reati comuni, quelli a cui sono sottoposti tutti i cittadini. Noi vogliamo che ci sia la garanzia di un giudice autonomo e indipendente, ma anche di un pubblico ministero indipendente. E quindi perché? Perché questo costituisce la garanzia per tutti i cittadini, che la legge è uguale per tutti. Un giudice può sbagliare, ma c'è sempre un altro giudice che può controllare e deve controllare in piena autonomia e trasparenza l'operato di un giudice, del primo giudice. Il nostro è un sistema complesso, un sistema che tanti ci invidiano, un sistema che non dobbiamo distruggere. Lei dice praticamente il PM, attenzione che se il PM è separato dal giudice, questo può essere soggetto all'autorità dell'esecutivo. Questa è la paura del Partito Democratico. Iole Santelli la condivide? Ma innanzitutto rammento, nessuno purtroppo, e dico purtroppo, aggiungo, che neanche nella mia parte politica nessuno richiede che il PM sia sottoposto all'esecutivo. Noto però che essendo un'anomalia quella italiana del PM indipendente, facendo la sintesi dovrei dire che esiste una buona giustizia solo in Italia, mentre in tutti gli altri paesi d'Europa e del mondo i giudici non sono indipendenti, il che mi sembra veramente un paradosso. No, soprattutto perché mi sembra che i dati sulla lentezza dei processi condannino la nostra. Ma la lentezza è una cosa a parte. Noi dobbiamo mantenere separati i due piani, da un lato l'efficienza della giustizia, ho delle falle nella casa, devo capire se posso fare delle rifiniture e basta, o se mi sta crollando le fondamenta. Noi dobbiamo occuparci anche di fondamenta, questo è il tema delle garanzie. Vede, il problema è uscire da un purtroppo da un lato, e mi auguro che il PD riesca ad affrancarsi da una storia purtroppo che si porta alle spalle, che è la storia italiana, e noi dobbiamo parlare delle garanzie del cittadino, le garanzie poste ad indipendenza del giudice, e in delle formulazioni sono garanzie per il cittadino, non sono privilegi di una corporazione. Il punto di domanda è: il cittadino italiano oggi si sente garantito? Io credo che un sistema fallace e allucinante come quello italiano, che tritura i cittadini, non esista al mondo. Questa è la domanda. Decidiamo se dobbiamo rispondere a interessi o a qualcosa che ci piace perché ci siamo innamorati di un sistema, ma perché non si può discutere in maniera tranquilla, normale, delle regole? Le ripeto, non della giustizia, ma delle regole di democrazia di un paese. Di questo noi dobbiamo discutere. Vede, quando diciamo obbligatorietà dell'azione penale, e l'onorevole Ferranti mi risponde, ma i PM lavorano in buona fede, non lo metto in dubbio, lavoreranno in moltissima buona fede. Fatto sta che per come è assestato oggi il sistema, il PM sceglie quello da le cose che deve perseguire e quelle che non deve perseguire, anche perché la massa di lavoro è tale che non può che scegliere. Il problema qual è? È che se io metto un minimo di, cioè do, sottolineo questa discrezionalità nella scelta, mi derivano delle conseguenze che la magistratura non vuole accettare, o meglio i PM non vogliono accettare. Il dato drammatico della situazione italiana è che il giudice, la parte giudicante, cioè la parte imparziale, che è in tutti i paesi è messa in una nicchia e salvaguardata da tutti, oggi di fatto il giudice purtroppo è una posizione estremamente subordinata rispetto a quella del pubblico ministero, e siccome lo è il giudice, lo è anche la difesa, e siccome lo è il giudice e la difesa, purtroppo lo è anche il cittadino italiano. Questo è il dato, lo vogliamo affrontare dopo 15 anni o dobbiamo trascinarci altri 20 anni? La giustizia, fin tanto che qualcuno non deciderà che forse è il momento di affrontare. Io mi auguro che il PD segua un'altra strada, che è quella che è stata indicata dall'onorevole D'Alema, dall'onorevole Violante in questi giorni, e cioè una riflessione molto più seria, molto più matura, molto più politicamente attrezzata sul sistema Italia. Donatella Ferranti, non c'è accordo, insomma? No, perché devo dire una cosa, non c'è accordo perché vengono rappresentate delle opinioni personali di alcuni, ma il Partito Democratico, come ripeto, ha fatto una conferenza nazionale e il segretario del Partito Democratico, Veltroni, ha fatto le sue conclusioni. Noi sui punti fondamentali che sono i cittadini capiranno che è stata fatta una riforma dell'ordinamento un anno fa, voluta dal centrodestra, e oggi ancora il centrodestra continua a dire che non c'è una riforma. Prima ho sentito dire che il nostro ordinamento è quello del periodo fascista. No, in realtà il nostro ordinamento abbiamo detto un'altra cosa. Allora io dico, il Partito Democratico è disposto a vedere le riforme procedurali, organizzative, di miglioramento, non è disposto a consegnare la giustizia italiana, la giustizia di ogni giorno, dei cittadini normali, in mano al potere politico, cioè a quello che decide volta per volta la maggioranza. Pensi a che cosa saremo esposti. Io lo penso anche se poi al governo dovesse esserci il centro-sinistra, cioè questo lo penso per tutti, quindi ritengo che da cittadina lo penso veramente, soprattutto per il lavoro che ho svolto, quindi ritengo che le riforme vadano fatte. La giustizia, come la sanità, come la scuola, purtroppo in Italia tanti servizi non funzionano, veramente bisogna metterci di fronte a un tavolo, ma un tavolo che col volto veramente a ridare funzionalità al servizio. Al cittadino italiano fa comodo, e il cittadino italiano vuole avere di fronte un giudice indipendente, preparato, cosciente, consapevole, che decide in fretta. Ecco, soprattutto quello. Allora, avvocato Ludovica Giorgi, quali sono le contestazioni dei cittadini italiani che lei sente ogni giorno? Allora, l'onorevole Ferranti ha detto che decida in fretta. E direi che forse il problema è proprio lì, il problema o anche la bontà di questa affermazione. Certo che il giudice deve decidere in fretta, Certo che il giudice deve però adottare una decisione che sia rispettosa di quelle che sono le garanzie delle persone. Non necessariamente la fretta e il rispetto dei diritti delle persone, con ciò intendo dire i diritti di chi sia imputato come i diritti di chi sia persona offesa, vanno di pari passo. Un accertamento, secondo la nostra Costituzione, un accertamento giudiziale è valido nella misura in cui accusa e difesa siano messe in grado parimenti di contraddire gli elementi di prova portati dall'uno e dall'altro. Allora, va benissimo la celerità laddove questo che è scritto nell'articolo 111 della Costituzione sia comunque garantito. Peccato che molte ipotesi di riforma che si qualificavano come tese alla accelerazione del processo del precedente governo e in particolare progetti provenienti dal ministro Mastella, ma purtroppo, e qui mi spiace onorevole Ferranti, mi dispiace molto questa cosa, sì, perché siete un po' due contro uno, ricopiati dai progetti dell'Associazione Nazionale Magistrati, tendevano all'accelerazione in piena violazione delle garanzie. Quindi se si parla di accelerazione, l'accelerazione è indispensabile, ma non si persegue con quegli strumenti. Sono altri gli strumenti e sono nella individuazione di una maggiore efficienza nell'organizzazione, il sistema delle notifiche. Voi immaginate che per effettuare le notifiche che sono previste dal codice di rito con le forme di oggi sono spesso necessari moltissimi giorni, moltissimi mesi, talvolta anni. Allora il punto è l'efficienza, il punto è non togliere quelle notifiche, ma garantire un sistema, per esempio un sistema informatico che effettui, sia in grado di garantire notifiche più veloci. Il problema è poi il carico di lavoro e allora quando si dice introduciamo un criterio che selezioni, diciamo così, la notizia di reato e faccia arrivare a giudizio soltanto quelle che sono denotate da effettiva offensività, da un potenziale di offesa effettivamente rilevante e quindi depenalizziamo e quindi introduciamo un giudizio di lieve entità del fatto che porti a un proscioglimento. Il problema è il carico di lavoro e quindi bisogna trovare gli strumenti per agire sul carico di lavoro. Per esempio, la proposta del ministro Alfano sull'obbligatorietà dell'azione penale, lei come la vede? È vero che l'obbligatorietà dell'azione penale è garanzia di uguaglianza, ma non mi si dica che oggi esiste l'obbligatorietà dell'azione penale. Il procuratore della Repubblica di Torino, Marcello Maddalena, all'indomani dell'approvazione dell'indulto, e voi vi ricorderete che tutta la magistratura diceva non va bene solo l'indulto, noi vogliamo anche l'amnistia perché così no, ci fate lavorare e poi in fondo devo applicare l'indulto. Cosa fece il procuratore della Repubblica di Torino? Adottò una circolare in cui disse ai suoi pubblici ministeri queste le archiviate, indicando quali dovevano essere le notizie di reato da archiviarsi. Allora non mi si dica che esiste l'effettività dell'obbligatorietà dell'azione penale, perché il procuratore Marcello Maddalena lo mise per scritto. La quota rosa. Ma sai, il premio è una piccola soddisfazione personale per tutto l'impegno che ho messo in questi 3 anni di lavoro. Poi il premio rimane un ricordo lì, questo niente toglie ai problemi che hanno le donne in agricoltura e nel lavorare la terra. Lavorare in agricoltura è sempre un problema perché nessuno si arricchisce col lavoro della terra. Tanta passione, tanto amore. Però la donna, oltre a essere una lavoratrice, è anche una madre, una figlia e una moglie, quindi dobbiamo conciliare quello che è la vita della famiglia con il lavoro, con lo studio, l'impegno per andare sempre avanti. Come si fa? È difficile, bisogna essere tanto curiosi, secondo me, e questo ti dà la voglia di andare avanti, di scoprire nuove cose. E non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono orari, la vita e anche il lavoro diventa tutto un insieme, però quando è una scelta è anche una cosa gratificante. Tiziana Fabiani dell'azienda agricola Forrà Pruno di Camporecchio Pistoia, intervistata dalla nostra Chiara Di Michele. Il 15 ottobre è stata la giornata mondiale della donna rurale e il 10 dicembre il ministro dell'agricoltura Zaia ha conferito il premio della Terra 2000 a 8 imprenditrici del settore agricolo. Veronica Navarra, presidente dell'Osservatorio Nazionale per l'Imprenditoria e il Lavoro Femminile in Agricoltura, organizzatore del premio. Insomma, le donne stanno emergendo anche in questo settore? Ma io devo dire, non è che stanno emergendo, le donne sono praticamente coloro che hanno sempre gestito in prima persona, magari fino a poco tempo fa in seconda linea, ma le coltivazioni, in modo particolare quelle coltivazioni tradizionali del nostro territorio. E ora, diciamo, questa siamo all'ottava edizione, si è fatto questo premio per istituzionare questo ruolo, cioè per far capire che sono parte integrante dell'economia nazionale, quindi portano bei numeri. Consideriamo che mentre c'è una diminuzione della presenza maschile in agricoltura, c'è un aumento delle giovani donne in agricoltura, tutte laureate in agraria e in veterinaria, quindi un lavoro scelto, non capitato perché l'azienda era di famiglia. E questo premio cerca un attimino di attirare l'attenzione delle istituzioni, delle grosse distribuzioni alimentari. Non dimentichiamo che tra i problemi principali è entrare nei mercati, in modo particolare nei mercati internazionali per le nostre donne. Allora, Susanna Cenni, PD, abbiamo sentito quindi che ci sono delle notizie positive per quanto riguarda le quote rosa in agricoltura. Voi vi aspettavate questo emergere delle donne in questo settore, che generalmente un po' nell'immaginario collettivo è appannaggio maschile, no? Si va, quanto è duro zappare la terra, si diceva un tempo. Beh, intanto buongiorno a tutti e saluto anche Veronica Navarra, che conosco da quando era assessore della Regione Toscana all'agricoltura. Beh, sì, questa presenza c'è, una presenza straordinaria già da anni. Io ho avuto modo nella mia precedente esperienza, appunto, di assessore all'agricoltura nella Regione Toscana, di toccare con mano questi numeri. Anzi, vorrei soprattutto sottolinearne alcuni. La presenza di queste donne oggi nel settore agricolo vede tra i giovani imprenditori e imprenditrici in agricoltura una assoluta prevalenza delle laureate, appunto, tra le donne. Quindi c'è un investimento, c'è una scelta nell'entrare in agricoltura, fatta anche di competenze e di sapere. L'altro dato è che c'è una presenza che si caratterizza soprattutto nei contesti di qualità. Penso alla grossissima presenza di donne nel settore dell'agricoltura biologica, nell'agriturismo, dove in Toscana il 30% vede titolari donne. Quindi io credo che portino davvero una ventata di novità, una ventata importante, anche se si scontra con grandissime difficoltà che questo settore sta vivendo nel nostro paese, che sta vivendo ovunque, ma che nel nostro paese sta scontando difficoltà maggiori, e non è un caso che noi abbiamo la decurtazione di reddito in agricoltura più pesante di tutto il resto d'Europa. Sabrina De Camillis, PDL, insomma, uno dei cavalli di battaglia della Lega è proprio l'agricoltura, le quote latte. Ci sono state molte discussioni con l'Unione Europea, adesso i rapporti come sono? Beh, innanzitutto saluto tutti e complimenti per l'iniziativa e per la trasmissione e per dare l'opportunità di approfondire un argomento troppo spesso lasciato ai margini, quello dell'impegno delle donne nella parte produttiva del paese. I rapporti sono buoni nel senso che noi abbiamo in questo momento, secondo me, la necessità come governo nazionale di difendere e difendere bene quelle che sono le potenzialità dell'agricoltura italiana. Il primo dato è questa contrattazione dell'Alt Check sulla PAC a livello europeo, che ha comportato l'aumento, appunto, in un'annualità del 5% delle quote latte, che è un bel dato per quelle aziende agricole che naturalmente puntano su questo settore. La strada però, io aggiungo, è ancora tutta in salita. Con l'onorevole Cenni si lavora in agricoltura, nella commissione, su tutta una serie di iniziative. Abbiamo fatto anche degli approfondimenti attraverso le audizioni perché il momento è un momento difficilissimo, come d'altra parte per gli altri ambiti economici del nostro paese, in modo particolare per il settore dell'agricoltura, che ha vincoli più restrittivi dettati proprio dalle politiche comunitarie. Sentiamo un'altra testimonianza. Il settore non è facile, c'è una grande predominanza maschile, soprattutto a livello di centri di potere, e io spesso lamento una mancanza di donne nei ruoli che contano. Le donne però nel mondo vitivinicolo sono sempre di più, e sono sempre di più le donne che lavorano nel e per il mondo vitivinicolo. Io nella mia azienda ho più del 50% di risorse umane femminili, non per una questione di femminismo, ma proprio per meritocrazia, perché le donne sono puntuali, precise, qualitativamente migliori e soprattutto abituate ad avere poco tempo, gestiscono molto bene il tempo. Dal mio punto di vista, la mia esperienza è stata sicuramente un'esperienza molto positiva dopo 15 anni di lavoro. Le difficoltà non nascondo che ci sono state, i pregiudizi perché ero donna e per di più giovane ci sono stati, ma non sono una vittimista, quindi penso che poi alla fine quello che conta è quello che deve emergere, è il lavoro, la qualità e i risultati. Insomma, abbiamo sentito un'altra imprenditrice, Chiara Soldati, dell'azienda agricola La Scolca, Gavi Alessandria. Allora, Veronica Navarra, queste donne impegnate nell'agricoltura, in che settore si specializzano, in che produzione? Partiamo appunto dalla notizia ovvia che la gran parte delle aziende agrituristiche nazionali sono gestite in prima persona. Non dimentichiamo che per esempio le donne già da anni attuano la vendita diretta dei propri prodotti, quello di cui si parla negli ultimi mesi assiduamente anche in televisione. Le donne lo fanno da anni, hanno attuato i laboratori di trasformazione e da anni quindi producono, trasformano e vendono i loro prodotti direttamente. Anzi, colgo l'occasione per dire che in diversi mercatini vengono organizzati nelle città anche lontane dalla campagna, dove le donne si spostano. Non vanno dimenticate le donne del vino, ovviamente, non vanno dimenticate le donne dell'olio, hanno tutte delle produzioni di olio d'oliva ottimo, e poi tutte le confetture, il miele. Ma non scordiamo tutti quei prodotti che alla fine sono servizi, come le fattorie didattiche, che servono alla formazione dei nostri giovani sia come formazione alimentare, ma anche chiaramente si formano i futuri consumatori. E non vanno nemmeno scordate i servizi che le donne fanno con le fattorie sociali, quindi verso giovani disabili, verso anziani. C'è il recupero per esempio dei carcerati presso le aziende agricole femminili. Quindi il mondo di queste donne in agricoltura non si ferma mai nella produzione stretta dell'alimento per poi rivenderlo. Normalmente viene abbinato sempre tutta una serie di servizi essenziali, in modo particolare in zone rurali, dove spesso c'è carenza di servizi. Le donne ormai, per esempio, si stanno lanciando negli asili rurali, che vi assicuro in alcune zone del paese sono essenziali per poter dare la possibilità alle persone che abitano in quella zona di poter avere un asilo comodo nelle vicinanze della propria abitazione. Insomma, uno sguardo a tutto campo in un settore strategico per il nostro paese, che è comunque un paese produttore di vino, di olio d'oliva, di beni di consumo agricoli che non esistono da altre parti del mondo. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla Quota Rosa @radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.